Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, un ritardo giustificato quello di oggi nella partenza del programma per via dell'uccisione di Gheddafi. E allora, per guadagnare tempo velocemente, parliamo di calcio con la C maiuscola, grazie al ritorno tra noi di Ottavio Bianchi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Vabbè, non fa niente, quando ci vedremo da soli te la farò pagare. La pagherò cara, benissimo. Vabbè, dunque io partirei da queste due serate di Coppa, le ultime due, ieri l'altro, ma anche il turno precedente, perché la stagione era cominciata molto male per il calcio italiano in Europa, tolto il Napoli, e già dalle qualificazioni estive, insomma, già da alcune delusioni all'Europa League, il quoziente UEFA che ulteriormente scendeva, eccetera, poi senza che per carità si sia ancora arrivati da alcuna parte, ma insomma adesso ci sono due squadre praticamente qualificate su tre che sono il Milan e l'Inter, e ci mancherebbe altro con quei gironi, e il Napoli mi sembra che stia in asse rispetto alle aspettative migliori in campo europeo. È cambiato qualcosa? È un segnale di inversione di tendenza oppure qualcos'altro? Le squadre italiane hanno sempre stentato l'inizio, sì. Perché gli altri giocano, noi no. Tu sai che per entrare in forma non servono le partite amichevoli o le coppette, ma serve le partite di campionato. In più molte squadre, due che abbiamo menzionato, e l'Inter in particolare, ha fatto una rivoluzione, ha cambiato quello che poteva cambiare, nel senso che ha cambiato allenatori in pochissimo tempo, vuol dire che già all'inizio le cose non andavano. Giocatori che sono arrivati dalla Coppa America e dalle rispettive nazionali, dove hanno dovuto fare una preparazione particolare. Poche pausa, e poi quando sono venute queste squadre hanno dovuto giocare partite amichevoli con i migliori giocatori dell'organico, altrimenti l'ingaggio non te lo danno. Certo. È tutto, salta un po' tutto, sì. Poi dopo non dimentichiamo che i gironi della Champions League sono fatti apposta per far passare le squadre migliori, perché altrimenti il business dov'è? Allora mettono, a parte il Napoli che ha incontrato un girone abbastanza difficile, ma non proibitivo, perché il Napoli è ben assettato, ha mantenuto la stessa organizzazione tecnica e poi anche la stessa conduzione, ha messo dentro alcuni giocatori dove i tecnici si sentivano, non dico in difficoltà, ma dovevano pararsi un po' nel caso in cui fossero stati infortunati o meno, e l'ossatura della squadra è rimasta la stessa organizzazione di gioco, ha accelerato un pochino perché aveva un girone di qualificazione più importante degli altri, ed è stata la squadra che è andata più in forma subito. Questo per me è la chiave di lettura sotto il profilo tecnico, è questa. E poi dopo il Milan ha i problemi, aveva avuto dei problemi un po' anche lei di giocatori infortunati o meno, proprio per queste ragioni. È difficile all'inizio, per noi è sempre molto difficile, anche perché le preparazioni nostre sono un pochino più pesanti di quelle degli altri, perché le altre, specialmente i tedeschi, fanno la pausa invernale, per esempio gli spagnoli giocano un calcio un po' diverso, meno fisico, sì. Ci sono tante chiavi di lettura che possono andare tutte bene, insomma. Però il fatto nostro è che le nostre squadre all'inizio hanno sempre stentato. Certo. Bene, allora tutto questo tra poco lo proiettiamo un po' in dettaglio, a partire dal Napoli, evidentemente per ragioni anche sentimentali, sul campionato. Ti ricordo che siamo in collegamento con Ottavio Bianchi e che dopo la disamina sulla situazione italiana in Europa, proporrei adesso di rientrare in patria e di dare un'occhiata a questa classifica del campionato, perché sembra, Ottavio, una classifica un po' dei tempi tuoi, quando ancora non c'erano i tre punti per vittoria. Ora, la domanda è, quanto è destinato, a parer tuo, a durare questo equilibrio? Ah, mi sembra è strano veramente, anche perché quei due punti, chi perdeva due partite in un anno era fuori da, dalla vittoria finale. Sì. Mentre adesso quei tre punti è la possibilità di recupero. Anche lì pensavo che una squadra che fosse partita un po' meglio poteva veramente prendere il largo, poi dopo farsi rimontare 5-6 punti diventava molto difficile. Ecco perché il Napoli in queste occasioni, avendo vinto gli scontri diretti contro il Milan e contro l'Inter, mi sembrava potesse prendere il largo. Poi dopo ho avuto queste battute d'arresto col Chievo, con la Fiorentina in casa e col Parma, e tutto si è ridimensionato. Ha potuto farsi chiudere la forbice e fare un campionato che per adesso è ancora interlocutorio. Sì, adesso certo. Non si sa ancora nulla. Di solito sempre si sapeva dopo 5-6 partite di campionato, si diceva ecco, le candidate sono queste, non sbagliavi di molto. Certo. Invece adesso, anche per gli impegni che hanno queste squadre, indubbiamente sono impegni elevati, anche perché le squadre di prima fascia sono composte da giocatori nazionali, e se tu hai molti nazionali che giocano, non dico in Europa, ma dall'altra parte dell'oceano, quando rientrano fai fatica con tutti. Non c'è dubbio, dato che insomma, Ottavio Bianchi per Napoli qualcosa rappresenta, da giocatore prima e da allenatore del primo scudetto poi, e quindi a Napoli quando parli tu pendono dalle tue labbra, la domanda che faccio io al professore, tanto poi la devo già pagare, no, in separata sede, è questa. La squadra non è praticamente cambiata rispetto allo scorso anno, perlomeno non nella struttura, nella mentalità e nella cosa. Come si spiega il fatto allora che lo scorso anno il limite del Napoli fossero i confronti diretti e il suo punto di forza fossero, salvo rarissime eccezioni, le squadre diciamo piccole o le squadre abbordabili, e che senza, ripeto, cambiare pelle e neanche sistema di gioco a occhio, la squadra improvvisamente sia diventata il contrario, cioè vinca i confronti diretti e invece faccia fatica quando deve far gioco? Mi sembra di essere di moltissimi anni, mm-hmm. Perché quando io giocavo nel Napoli avevamo una squadra composta da grandissimi giocatori, di nome ma anche di fatto, e si vinceva sempre o quasi contro le squadre importanti, e poi dopo si veniva a Bergamo, a Mantova, a Brescia e chiaramente si beccava. Poi dopo lì c'è stata l'inversione di tendenza, il nostro lavoro, quello di Allodi, Dio e di Ferlaino un po' meno, ma noi tecnici era proprio quella di inculcare una mentalità diversa, dove ogni partita non bisognava avere molti entusiasmi dovevi vincerla. Sì. I due punti lo levano con il Mantova come con la Juventus. Certo. E questo non è facile. Devo dire che quest'anno, sempre in chiave a livello mio personale, non è che sia il Vangelo, però mi sembra che incontrando all'inizio le squadre cosiddette grosse, vedi Inter e Milan, piene enormi difficoltà interne e anche di organico, il Milan e il Napoli in piena salute ha avuto vita facile, ma anche perché in chiave tattica è molto più semplice da spiegare, perché queste squadre bene o male ti danno spazio, ti danno campo, non possono venire a giocare contro il Napoli e giocare chiuse per poi farti piccare contro e evitare a Napoli le qualità migliori, che sono quelle della velocità partendo da dietro, no? E gli danno spazio, e se tu dai spazio a Napoli è un suicidio, sì. come dimostri il gol di Manchester, dove capolavoro, la palla in zona d'attacco, in zona di difesa quelli del Manchester hanno trovato un'autostrada dove si è inserito e poi la palla laterale. E questo è stata, se tu vai ad analizzare il secondo gol, il gol di Cavani è stata identica fotocopia, certo, no, di questi gol. Se tu poi dopo incontri delle squadre tipo il Parma, la stessa Fiorentina, che si è chiusa molto bene, si è fatta picchiare e poi è ripartita, diventa difficile. Lì bisogna cambiare decisamente gioco durante la partita. E questo non è facile per il Napoli, ma non è facile per tantissime squadre. Lo stesso Barcellona gioca un calcio monotematico, speriamo che continui a giocare così, ma però giocano talmente tanto bene con dei giocatori eccezionali, e io vorrei sottolineare Iniesta, che per me è stata una cattiveria grandissima non dare il pallone d'oro 2 anni fa a lui, perché è il vero spot pubblicitario per il gioco del calcio. È questo ragazzino alto 1,10 con i tacchi, non tatuato, che viene dalla cantera, certo, e che con un'intelligenza e con una classe superiore fa girare questa palla come se fosse un assolo di violino. Il Barcellona è l'unico che può permettersi di giocare sempre alla stessa maniera, però se quando incontra squadre di pari grado che sono attrezzate in maniera diversa, se tu ti ricordi il Chelsea di Higgins, come no, lo stesso Inter di Mourinho, se loro non sono proprio al massimo della condizione possono perdere, certo, possono perdere facilmente, certo. Ecco, il cambiare modulo e sistema di gioco durante la partita dovrebbe essere normale in tutte le grandi squadre, invece non lo è. Ottavio, la domanda, perché il tempo passa ed è passato all'inizio, dicevo, ricordando a chi è in ascolto, anche se ormai tutti lo sanno, che la notizia del giorno è la morte di Gheddafi dopo la cattura, per le ferite riportate in questo, insomma, in questo scontro a fuoco. La domanda finale è questa. Allora, del Napoli abbiamo dato una lunga disamina, che era quella che per cui poi valeva la pena di questo collegamento, soprattutto, no? Visti i trascorsi, vista la passione, visto il legame che ancora c'è da parte tua con Napoli. Ti chiederei, appunto per concludere, che cosa ti convince di più tra il nuovo progetto della Juventus, il ruolo potenziale che in un campionato di così grande equilibrio possono avere la Lazio tradizionale, la nuova Roma, forse anche la stessa Udinese, e che margini eventualmente di recupero può ancora avere l'Inter? Ma già il termine progetto mi fa rizzare i peli, sì, in testa, certo, capito. Capelli non ne ho più. Capelli non ne... Quando si parla di progetto nel gioco del calcio si parla di non idee, di non programma e di fallimento completo, perché il gioco del calcio in Italia tu sai che non puoi progettare niente. Assolutamente. Se poi parli della Juventus, mi sembra che in questo momento tutte abbiano delle condizioni favorevolissime, perché c'è l'entusiasmo della gente, l'allenatore l'ha voluto la gente, i dirigenti sono nuovi dopo moltissimi errori, hanno capito che hanno imboccato una strada che poi non so se sia vincente o meno. Questo te lo traduco in chiave tecnica. Se un allenatore, se una squadra negli anni passati avesse giocato come gioca la Juventus e in questo momento vincente, non avrebbe goduto dei favori vostri e del pubblico, perché giochi con una mezza punta e con tutti i centrocampisti per fare superiorità numerica al centrocampo. Per adesso la Juventus è la più grande provinciale d'Italia, però per poter vincere devi avere anche qualcosa in più, devi anche impostare, devi avere anche il dominio del gioco. È chiaro che il dominio del gioco lo trovi se hai uno sbocco offensivo notevole, certo, e se i giocatori più importanti stanno in panchina diventa difficile, però in questo momento penso che Conte abbia perfettamente ragione, finché non inculca una mentalità particolare sarebbe un lusso permettersi di giocare in maniera diversa. Vedrai che strada facendo, se gli danno il tempo, può essere competitiva. Il tempo mi dà l'impressione che sul profilo così dell'ambiente glielo stiano dando. I risultati gli stanno venendo, poi strada facendo cambierà, a secondo delle possibilità, cambierà atteggiamento tattico. Certo. L'Udinese da sempre sta facendo bene con i cambiamenti, riescono a trovare dei giocatori estremamente interessanti, li fanno giocare, giocano un buon calcio, però non mi sembrano attrezzati per vincere. Certo. E la Roma è la Roma, è in pieno cantiere, nel senso che la Roma quest'anno non si potrà giudicare, perché è cambiato veramente tutto, dalla società ai tecnici, ai giocatori tantissimi. Tre quarti di squadra, certo. Che cosa ci si può aspettare? Si può guardare giorno per giorno se ci sono i miglioramenti, ci saranno sicuro. La Lazio è quella che sotto il profilo è un po' nella falsariga del Napoli, ha mantenuto le stesse cose, ha cambiato, ha messo dentro dei giocatori importanti dove c'era un po' di carenza, questo sbocco offensivo che l'anno scorso era stato deficitario. L'ambiente Roma, bisogna vedere anche lì se all'allenatore, dove è sempre messo in discussione secondo me immeritatamente, riesce a fare, possono avere pazienza, dare la possibilità di giocarsela. Mi sembra che la Lazio abbia una buona organizzazione di gioco, una buona conduzione, però l'ambiente Lazio tu sai com'è. Meglio usare determinate cautele. Ottavio, devo riprendere la linea per cederla ai mercati. Io conto su di te per un aggiornamento tra non molto tempo, no? Tra qualche, non dico giorno, ma al più tardi settimana, per vedere quali di questi orientamenti che ci hai delineato e soprattutto di queste prospettive si può realizzare nel breve medio termine. Va bene. Grazie a Ottavio Bianchi. Grazie a te, ciao Gigi. Buona giornata. Qualche notizia prima di dare spazio poi ai vostri interventi. Intanto questo nubifragio pazzesco che si è abbattuto stamane su Roma ha fatto saltare gli allenamenti di Roma e Lazio per impraticabilità, in particolare a Trigoria, impraticabilità dei campi del centro sportivo a causa del nubifragio. Qualche curiosità legata ancora alla serata di Champions League. In questa terza giornata sono stati segnati in totale 44 gol, nessun 0-0, 5 vittorie in trasferta su 16 partite e l'unica squadra a punteggio pieno, quella che secondo me quest'anno è la favorita per il successo finale, che è il Real Madrid. Io vedo Real Madrid e subito a ruota Barcellona e Bayern come squadre più forti d'Europa, senza escludere magari il Chelsea. Poi se per caso un'italiana, e in questo caso penso al Milan, riuscisse a inserirsi in questo lotto, tanto riguadagnato. Certo, la squadra del giorno, comunque di queste prime tre partite del girone d'andata, di quelle di qualificazione, la squadra del giorno senza alcun dubbio è l'Apoel di Nicosia, perché è in testa al suo girone, che è un girone da poco, ma insomma è pur sempre in testa al suo girone con 5 punti e tra l'altro ha già giocato due partite in trasferta, il che vuol dire che dovendo giocare 2 su 3 in casa ha molte, ma molte probabilità davvero di una storica qualificazione agli ottavi di finale. Giorgio ha chiamato da Prato, buongiorno. Giorgio ha chiamato da Prato, ma si sente un collegamento in essere, ma non, evidentemente non sta ascoltando. Allora, parità di trattamento, o quasi insomma, tra Champions League ed Europa League, le vigilie delle squadre impegnate stasera in Europa League, a cominciare da Guidolin e dall'Atletico Madrid. È una squadra di giocatori di classe, tanti giocatori di qualità, inseriti in un contesto spagnolo, quindi sì, possesso palla, occupazione degli spazi, molti giocatori nella zona della palla, non la alzano quasi mai, con davanti dei giocatori molto molto forti. Di Natale ha avuto un piccolo dolorino a una gamba, se c'è un minimo possibilità di rischio non lo rischierò. Floro Flores gioca dall'inizio, posso dire che giocherà Armero dall'inizio, che ha riposato a Bergamo, altre cose non le dico. E le scopriremo vivendo. La vigilia laziale, nelle parole di Giovanni Lopez, che il vice di Eddie Rey ha squalificato dopo l'espulsione con lo Sporting di Lisbona. Secondo me è una tappa importante, è una partita da non perdere, proprio per non lasciare andare le squadre che ci sono davanti. È una partita che possiamo vincere. Secondo me questa partita del derby ci ha dato la consapevolezza proprio che siamo una squadra forte. Abbiamo rimontato una partita importante anche domenica e domani possiamo tranquillamente vincere, con delle difficoltà che sicuramente ci metteranno loro in difficoltà, però insomma abbiamo un'ottima squadra e stiamo attraversando un ottimo momento. Molto bello quello che è accaduto ieri sera a San Siro nell'intervallo, e cioè ad un certo punto dai maxi schermi dello stadio, stavano proiettando immagini, arrivano immagini del Barcellona. Allora, vista la rivalità momentanea, no? per via dello stesso girone, si leva qualche fischio dai cosiddetti spalti al vedere queste maglie blaugrana. Poi in realtà le immagini sono quelle, in leggerissima differita, del gol del primo tempo di Iniesta, e quando hanno visto questo gioiello di gol di Iniesta, i milanisti hanno mutato questi pochi fischi in un uragano di applausi, perché insomma il bello poi alla fine vince sempre, o comunque dovrebbe perlomeno vincere sempre. Un'altra nota curiosa che mi ha molto colpito è che, visto che San Siro è la scala del calcio, Taiwo si è portato la claque, come si usa la scala, no? Quando qualche tenore debutta, o qualche soprano, o qualche baritono, perché effettivamente ogni volta che Taiwo toccava il pallone c'erano grandi ovazioni da parte del pubblico per questo giocatore dubbiamente interessante, poi insomma da verificare in dimensione Milan. Giorgio, dicevo, ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, buongiorno a lei. Ma io stamattina, leggendo un po' le formazioni delle squadre che stasera scenderanno in campo in Europa League, mi sono abbastanza stizzito, no? Vedendo che da una parte mancherà Di Natale e dall'altra Klose, no? E allora io rifletto, ma è proprio un atteggiamento, veramente non capisco, è proprio un atteggiamento autolesionistico questo qui, no? Ma per due motivi essenzialmente. Primo, perché non c'è solo un ranking UEFA per nazione, c'è anche un ranking UEFA per singola squadra, no? Pensi che io, una cosa che non sapevo, io tifo Fiorentina, all'inizio di quest'anno io ho visto con stupore anche che la Fiorentina, prima che iniziassero le coppe quest'anno, era al 27° posto nel ranking per squadra, no? Molto molto più avanti, anche squadre blasonate italiane e non. Perché questo? Certo per la Coppa dei Campioni, la Champions League buona fatta due anni fa, ma soprattutto per la Coppa UEFA che vide protagonista la Fiorentina seriamente fino alla semifinale. E quindi questo è già un dato importante. Quest'anno, se fosse stato al posto del Napoli, sarebbe stata addirittura in seconda fascia. Sì, sì, Giorgio, il concetto è chiaro. Io credo invece che non abbiano tutti i torti né Guidolin né Reia nel risparmiare i loro campioni, e anche perché i loro campioni sono usuratelli, cioè stiamo parlando di Natale e Klose, che non sono esattamente due ragazzini. Sono scelte che si fanno in una sorta di inchiesta. La scorsa settimana abbiamo provato a documentare perché l'Europa League sia così poco appetibile, perché i premi e comunque i soldi, diciamola più volgarmente, i quattrini che si ricavano dall'Europa League sono davvero pochi rispetto a quelli che si possono guadagnare. Stiamo parlando dell'ordine di un ottavo, un decimo circa, no? Nel rapporto rispetto a quelli che si guadagnano con una semplice partecipazione ai gironi di qualificazione, cioè a questa fase della Champions League. E quindi, come ogni anno accade, l'obiettivo di provare ad arrivare fino all'altro anno quarti, adesso terzi in campionato, è superiore come richiamo, come stimolo, a quello di, non dico vincere l'Europa League, ma di andare particolarmente avanti in Europa League. È giusto, è sbagliato, è discutibile, insomma sono conti che fanno, però se tutti più o meno la pensano così e tutti si comportano così, insomma una ragione logica evidentemente alla fine ci sarà. Enzo ha chiamato da Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno signor Gigi, è una cortesia, dunque se chiamo da Ascoli già capisci grosso modo su che direzione vorrei andare. No, allora, sinceramente no. È il delittaccio di quest'estate oppure... No, penalizzazioni, no? Sette punti sul calcio scommesse, e l'Ascoli, non sta a me fare la difesa, aveva già fatto questa denuncia, questo esposto, che c'era qualcosa che non andava. E di questi 7 punti non è che ne ha beneficiato, cioè di quella penalizzazione non è che ne ha, beneficiato, perché le partite in oggetto addirittura non sono state né vinte, ma addirittura sono state perse. Ma a parte quello, sono 7 punti. Ieri leggo sul giornale che ci stanno altri 3 punti di penalizzazione. Allora, io quello che voglio dire è questo, che sono giusti, perché se esistono delle regole vanno rispettate. Però voglio dire, il signor Benigni sta dando via l'anima per tenere in piedi questa squadra. Ma al di là ancora di questo, i tifosi, gente che in questa provincia da decenni e decenni amano questa società in una maniera pazzesca, come in tutte le province, Enzo, le province, Gigi, grazie, sono veramente penalizzati con il magone dentro. Ma lo posso capire, lo posso capire, Enzo, è normale che sia così, non si accettano volentieri delle penalizzazioni, si pensa sempre... La prima cosa che il tifoso fa, cioè, è la presunzione di innocenza, anzi, pure di più, quelli che si mettono la mano sul cuore, quelli che si appoggiano la mano sulla guancia e poi vanno sotto la curva così, e invece magari poi ogni tanto salta fuori che tutti questi gesti non avevano poi questo grande motivo di essere, o che comunque c'era dell'altro. Poi se invece ci saranno delle sentenze d'appello che ribalteranno questi verdetti, ben venga, saranno ben accette, ma la giustizia sportiva esiste, non è detto che sia infallibile, però esiste, io ci aggiungerei anche per fortuna. Data particolarmente ricca, quella del 20 ottobre, per una rubrica del passo della storia dello sport e del calcio in particolare. Questa che Nicola Filippone ha scelto oggi sarebbe piaciuta particolarmente a Ottavio Bianchi, l'idea era quella di proporgliela come a Marcord se il collegamento non avesse dovuto essere abbreviato per ragioni di cronaca, che sapete, legate alla morte di Gheddafi. Allora, sentiamo il Sembra Ieri. Sembra Ieri. 20 ottobre 1985. Al San Paolo, il Napoli di Ottavio Bianchi travolge il Verona di Osvaldo Bagnoli, campione d'Italia in carica. Il 5-0 porta le firme di Giordano, Bagni, Maradona, Bertoni e Pecci. Indimenticabile il gol del 3-0 siglato da Maradona al 58esimo. Un pallonetto folle dalla tre quarti che sorprende il portiere Giuliani. Uno dei suoi gol italiani più belli, che nel dopopartita Diego descrive così ai microfoni della Rai. Sì, sì, ho visto che Giuliani stava fuori dalla porta, mi ha rimbalzato la palla, ho visto che calciato con fortuna che altro non importa, un gol bello perché era di lontano. Il 5-0 al Verona è la prima prova di forza di una formazione che chiuderà il campionato con un brillante terzo posto e che l'anno successivo conquisterà uno storico scudetto. Un gol bello, ha detto Maradona, no? Non gli piaceva esagerare evidentemente con le parole, a differenza che con i piedi. Tra l'altro il 20 ottobre Maradona quel giorno come oggi festeggiò l'esordio in assoluto della sua carriera, perché lui esordì a 15 anni e tanti mesi con la maglia numero 16 dell'Argentinos Junior contro il Talleres di Cordoba. Vittorio da Treviso, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio intanto per l'occasione di parlare con lei. Io sono tifoso del Milan e sono un giovane ragazzo del tifoso e che ieri sera allo stadio. E ho notato, dopo la partita anche della Juve, perché c'è stato il famoso cambiamento, che almeno parlano i giornali e il nostro allenatore, una differenza che lasciando perdere Van Bommel, che anche l'altra sera qualche cosa, diciamo, poteva fare qualcosa meglio, mi sembra che la novità Aquilani e soprattutto un ritrovato Nocerino dà più filtro e più idea a questo Milan. Ascolti risposta, grazie mille. Filtro non saprei, qualità sì, qualità sì. La coppia Aquilani e Nocerino l'hanno cercata apposta, proprio per avere più qualità, oltre che alternative, avere anche più qualità, soprattutto da parte di Aquilani. Più qualità Aquilani e più quantità Nocerino, direi, ma insomma, comunque due giocatori molto interessanti e molto, molto preziosi, che probabilmente all'inizio di stagione hanno avuto anche qualche problema di inserimento, perché insomma, poi in qualunque squadra tu arrivi, non è che dei meccanismi tattici ti impadronisci al volo, e quindi oltretutto il Milan ha alcuni giocatori che, per forti che siano, sono abbastanza atipici, no? Soprattutto davanti, non è che sintonizzarsi su Cassano, su Ibrahimovic, cosa sia così semplice, e quindi questi sono stati i problemi. Poi adesso, un po' alla volta, le loro qualità stanno emergendo e credo che saranno giocatori preziosi. D'altra parte, lo sostengo sin dal primo giorno di ritorno a questi microfoni in questa stagione, che le vere operazioni di mercato positive quest'estate le ha fatte certamente il Milan. Poi tutto questo va verificato, ma credo che sulla qualità dei giocatori trovati, a cominciare appunto da Nocerino, da Aquilani, dallo stesso Maxès, non ci sia moltissimo da discutere. Elio ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Senta, io volevo farle una domanda, premesso che sono un grandissimo tifoso della matricola Novara Calcio. Sì. Mi sarebbe piaciuto tra l'altro sentire anche il dottor Bianchi, perché mi predisse nel 2006 la risalita del Novara dopo tanti anni. Ma Bianchi non è dottore, però, se lo chiama dottore finisce male. Vabbè. Senta, no, io volevo solo chiederle se, per quello che ha visto sinora e per quella che è la sua grande esperienza, l'operazione salvezza è una cosa possibile oppure no. Grazie. Possibile sì, probabile già mi sembra un po'. Insomma, sarebbe un po' spingersi, non dico oltre le colonne d'Ercole, ma insomma spingersi già un tantino in là. Io credo che Novara sia una di quelle che farà oggettivamente più fatica, ma come in fondo sapeva fin dall'inizio, perché non saprei dire esattamente perché, però insomma, visto che mi chiede una cosa così a naso, a pelle, a sensazione, credo che sarà un'impresa abbastanza complicata. D'altra parte, quelle complicate da realizzare sono anche le più belle, no? Sono anche le più affascinanti. Quindi, quindi innovare è uno stimolo in più per provare a riuscirci e a centrarla. Mario ha chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Ganzi. Volevo risentire in quanto ha detto sulle squadre di Champion, che probabilmente l'unica squadra che arriverà ai quarti o più in là sarà il Milan. Secondo me arriverà anche l'Inter. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei, ma io non credo di aver parlato né di quarti né di semifinali, che facevo un così, buttavo lì delle sensazioni, ma tutte da verificare, perché nascono da tre sole partite, tra l'altro di gironi di qualificazione, quindi non di eliminazione diretta, che sono poi quelle che contano e che ti danno davvero la sensazione del peso specifico di una squadra in campo internazionale a quel livello così alto. E dicevo che il Real mi sembra, non che la cosa mi faccia sto grande piacere, ma insomma mi sembra quest'anno forse la favorita. Mi sembra che Barcellona e Bayern siano praticamente o quasi sullo stesso livello, e che poi tra altre possibili, a cominciare dal Chelsea, delle italiane che possono vantare maggior qualità per arrivare non ai quarti o in semifinale o agli ottavi, okay, ma insomma per andare avanti mi sembra che quella di maggior qualità sia il Milan. Lei dice anche l'Inter, vediamo se sarà così, ma è un po' lo stesso discorso del campionato. Se il Milan si ritrova, e mi sembra che qualche piccolo segnale ci sia, non c'è dubbio che la caratura della rosa del Milan sia superiore a quella di tutte le altre squadre. Il fatto di aver fatto una falsa partenza anche abbastanza grave e di essere comunque lì ragionevolmente vicina o comunque non così lontana dalle squadre di testa in questo campionato di grande equilibrio significa qualcosa a sua volta. Daniele da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti vi ringrazio per lo spazio che mi lasciate. Io volevo porre due quesiti. Premetto che io sono un tifoso del Verona, nonostante sono di Vicenza. Volevo soltanto chiedere se per voi il Verona ha la squadra e la città per raggiungere il traguardo della Serie A. E un'altra domanda che volevo farvi è questa. Noi in Curva del Verona siamo soggetti a restrizioni allucinanti ogni domenica. E volevo chiedervi se forse non è il caso di prestare anche un po' di attenzione anche a certe tifoserie come quella del Napoli, che anche l'altra sera si è resa protagonista. È il caso sì, Daniele. È il caso sì, è il caso assolutamente di prestare molta attenzione a Napoli, alla tifoseria del Napoli, della Roma, della Lazio, senza mai abbassare la guardia su quella del Verona e su altre, no, di cui i trascorsi sono ampiamente collaudati. Dopodiché io credo che la città Verona sia ampiamente ben rappresentata in Serie A dal Chievo. Il fatto che il non so se sia in grado di reggere due squadre contemporaneamente in Serie A, teoricamente è possibile, anche se mi pare sinora sia successo per una stagione sola. E la squadra, non lo so, sinceramente vediamo, mi sembra la partita meglio di come stia invece continuando. Non continuo io perché l'orario mi sembra arrivato a segnalare. Fabio Cantadori in regia, grazie. Franco Piantanini in redazione. Noi ci sentiamo la prossima settimana, da domani Carlo Gente.